Jamie Tights, mi conosci per tutti gli album che ho fatto. Compatto, ho firmato un contratto, quest'anno ho perso il contatto, prima ero fatto, ora pure. Scrivo le vostre sepolture con i tasti del computer. Questi si autoproclamano i padroni della scena, ma hanno lasciato solo per i computer. Pensi che non ci ho provato a lavarmi, ma questa merda non va via. Ci ho creduto troppo, adesso nel cuore c'ho lo sbarco in Normandia. Però fanculo la nostalgia, non sono uno di quelli che sulle basi fa il gia. I colleghi mi chiamano Johnny, quando rappo è quasi magia. Sprechi mille bizze, prendi mille fischi, resti sempre Mister X in preda agli isterismi. Quando rappa Mad Men metti chips e Dixie, già, perché piscio su sti rappers come in Killer Instinct. Dissi me, voglio metti le bici, te, quando smetti già bici, yeah. La mia gente fa il bis di me, troppo casse coi dischi, rap come un panzer o un bici, le strofe pazze bellissime, le tue false come le Yeezy, rap. Vai. Quando entro su un pezzo dicono bella storia, perché c'ho i flow più gravi della storia. Per repare mi chiedi la liberatoria, o finisci in una sala operatoria. Ogni quartina è un destro in faccia di Oscar della Hoya. Cascano i pianeti come melancolia. Ma che cazzo? Non vado al festival di canne, ma faccio un festival di canne. Restiamo persi tra le piante, fino a vedere i deschi tra le fiamme. A prova di odio ed è un dato di fatto, chi l'ha sentito ha dato di matto. Di ogni mese mi sbatto per stringerti il nodo del capio. Siamo Scorsese e DiCaprio. Un attacco a repare una rabona, frate appare Giuseppe la Madonna. MGM e la gente paragona, solo noi tipo Pele Maradona. Il tuo rap è il modello di una farsa, faccio un testo più bello sulla tazza. Siamo il meglio sulla piazza, l'universo, la galassia. La mia stanza sembra un coffee, fra puzza d'erba come i dolphins. La tua di merda come un water, frate di che problemi soffri. Ho sempre gli occhiali grossi, gli occhi verdi, gialli, rossi. Vieni e bevi e parti nostri, vieni e ti svegli in altri posti. Faccio di tutto per le donne come Bang Bros. C'ho lei vicino che sta fatta come Kate Moss. Fischio cose nel termo, per questo non sto mai fermo. Vuoi volare in eterno, chiedi all'esperto. Cercavamo i contenuti, poi non ci siamo trattenuti. Abbiamo fatto un salto dalle grubi, tu hai fatto un salto dalle rubi. Sapete tutti i testi a memoria e poi ci date dei venditi. Contro noi non c'è storia, è come se ti invade Putin. Tra tutte le strade non ho scelto quella giusta. Siamo i migliori nel campo come la vodka in Russia. Qua non c'è posto per te, il tuo flow nessuno lo aggiusta. Io non vado a c'è posto per te, ma scelgo di aprire la busta. Non è che sei vecchia a scuola, tu frate sei un rapper niche. Vedi le scarpe che c'è piedi, le chi la suola Peppe Fetish. Il tuo score bene, wow. Voi da un po' che siete in down, tanta roba se le so. Vinco sempre, ciao!